Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana, poi vi lasciamo in pace per tutto il weekend con le questioni legate alla gestione del denaro e ai tanti problemi che ci infastidiscono e ci attanagliano ogni giorno. Oggi ritorniamo però, per concludere in bellezza, ma non tanto, su una questione delicatissima della quale ci siamo già occupati più volte e per la quale, per la verità, confidavamo anche in novità dell'ultima ora che evitassero a molte famiglie, in qualità di eredi, di perdere investimenti sottoscritti in passato da congiunti che non ci sono più. È la questione delle polizze vita, le cosiddette polizze dormienti scadute fra il 2005 e il 2007, per le quali è scattata l'impossibilità del riscatto secondo quanto ha fissato, previsto una legge del 2008, la legge 166, la cosiddetta legge Alitalia. C'è stato un pressing molto forte negli ultimi mesi da parte delle associazioni dei consumatori affinché nel decreto mille proroghe si introducesse un emendamento che in qualche maniera modificasse la situazione della quale oggi parleremo a lungo. Il decreto ha avuto il via libera ieri dal Senato e non ha registrato alcuna modifica a questa legge. Adesso alcune associazioni dei consumatori puntano sul decreto incentivi, non danno tutto per perduto, ma invece molti soldi li hanno persi già molte famiglie che non riescono in alcun modo a dialogare appunto con la banca presso la quale magari questo investimento è stato sottoscritto e non riescono a rientrare in possesso di quanto teoricamente hanno diritto. Teoricamente per loro non c'è nessuna teoria e nella pratica sono denari investiti in passato e non capiscono il motivo per il quale adesso non possono rientrarne in possesso. Una situazione delicata, dicevamo, che sta gettando anche nella disperazione, ci raccontava poco fa, e allora io ne approfitto subito per salutarlo, Paolo Martinello, l'avvocato Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo, che sta gettando nella disperazione molte famiglie, avvocato. Sì, buongiorno. Purtroppo è proprio così. Noi siamo in contatto con svariate decine di famiglie coinvolte in questa situazione assurda. Sono persone che avevano diritto a riscattare queste polizze, a ricevere gli indennizzi dopo che era deceduto il titolare della polizza. Era un classico risparmio semplicissimo, sicuro, e che invece all'improvviso si sono trovate con la compagnia assicurativa o la banca che rifiuta il pagamento perché questa legge effettivamente gli impedisce di farlo, perché sono passati più di due anni dal momento del decesso. Stiamo cercando di recuperare questa situazione, posso dire e testimoniare davvero l'incredulità e l'esasperazione di decine di famiglie che, posso dirlo chiaramente, insomma, minacciano gesti inconsulti se questo problema non si risolve. E lì si può capire, perché sono famiglie umili, sono famiglie che hanno messo da parte piccoli risparmi, che però vuol dire decine di migliaia di euro, e che oggi improvvisamente non se li ritrovano più in mano. Adesso noi sentiremo tra pochi minuti la nostra scheda con la quale abbiamo riepilogato tutta la vicenda, perché naturalmente c'è chi non ne sa nulla, perché per fortuna non è neanche direttamente interessato, però magari può essere utile rifare un po' l'ABC di tutta la questione, che peraltro rientra anche in quella complessiva di cui parliamo da qualche anno, dei cosiddetti conti dormienti. Poi ritorneremo anche lì. Ne approfitto per salutare anche, lo ringrazio per essere con noi, l'avvocato Francesco Nanni, direttore affari giuridici dell'ANIA, l'associazione delle compagnie di assicurazione in Italia. Avvocato Nanni, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. E grazie per essere a nostra disposizione questa mattina. Ovviamente, come sempre, microfoni aperti agli ascoltatori, 800 24 00 24, per intervenire in diretta. Se non avete l'opportunità di parlarci direttamente, ci potete scrivere al 349 238 6666. La borsa, prima di partire sulle polizze vita e sulle polizze dormienti, la borsa oggi è positiva, tenta di recuperare almeno parte del terreno perso ieri. Abbiamo in media rialzi di quasi un punto percentuale fra gli listini europei. Particolarmente Londra è al di sopra di questa soglia, più 1,02%, Parigi più 0,9%, Francoforte più 0,8%, Milano più 0,8%. Su Milano continua ancora a pesare la vicenda dello scandalo, della frode fiscale che ha coinvolto, come sapete, la controllata di Telecom e Telecom Italia Sparkle e soprattutto Fastweb. Fastweb continua a pagare un po' di più in borsa, perdeva anche stamattina più di 5 punti percentuali. Adesso vedo che invece il titolo ha già fatto la sua corsa al recupero, ma in ogni caso è scivolata intorno ai 13 euro e anche in questo momento, adesso la trovo rapidamente, sta perdendo 3 punti e mezzo circa. Eccola qua, si sta perdendo 3 punti percentuali esattamente. Telecom perde un punto punto e mezzo. Il peggior titolo però in questo momento a Piazza Affari Autogrill, meno 1,85, Pirelli meno 1,47, abbiamo un ribasso di un punto anche per Fiat e CIR. Parmalat invece continua ad essere la regina della seduta, più 3,29%, il gruppo oggi incontra la comunità finanziaria, bene anche il Banco Popolare, più 2,42%, abbiamo Mediolanum in rialzo di 2 punti e Unicredit più 1,75%. L'euro oggi recupera un pochino sul dollaro, ritorna sopra la soglia di 1,36, ma non è che si siano modificati i timori per la crisi greca, dalla quale torneremo sicuramente a parlare anche nei prossimi giorni. Questo il quadro di borsa, adesso andiamo alle nostre polizze dormienti. Si chiamano polizze dormienti, ma di questo passo rischiano di levare il sonno a migliaia di risparmiatori che nel giro di un mese potrebbero perdere i risparmi maturati con le polizze vita non ancora riscattate. In seguito al cosiddetto decreto Alitalia del 2008, che ha esteso alle polizze vita la disciplina dei conti dormienti, chi non le reclama per tempo, cioè entro 2 anni dalla scadenza o dalla morte dell'intestatario, perde i soldi. Ma il vero problema di questa legge, la 166, è la retroattività al 2005. Questo significa che anche il rimborso delle polizze i cui titolari sono morti tra il 2005 e l'ottobre 2008, quando la legge non esisteva ancora, è bloccato. Da diverse parti è giunta la richiesta di cambiare il decreto, ma gli emendamenti finora non sono riusciti a passare. Le ultime speranze erano rivolte al decreto incentivi all'esame oggi. Una vera ultima chiamata, perché nel mese di marzo tutte le compagnie dovranno comunicare al Tesoro l'ammontare delle polizze dormienti per il 2009, importo che nel mese di maggio confluirà nel fondo costituito per le vittime dei crack finanziari. Un'operazione, quest'ultima, che oltretutto può essere effettuata senza informare i titolari o i beneficiari. 800 24 00 24, torno a ricordare il numero verde per intervenire qualora foste incappati in una situazione di questo tipo, abbiate chiesto il riscatto di una polizza di un vostro congiunto venuto a mancare negli ultimi anni e non siate riusciti a capire le motivazioni per cui l'intermediario al quale vi siete rivolti non vi restituisce quanto ovviamente legittimamente vostro, allora chiamateci, cerchiamo un po' di capire cosa si potrà fare. Volevo, visto che Paolo Martinello già gli ho permesso un saluto, un primo intervento, volevo permetterlo anche all'avvocato Francesco Nanni dell'ANIA, l'associazione appunto delle imprese di assicurazione. Poi peraltro spiegheremo che in realtà il vero nodo più importante è stato quello delle polizze vendute attraverso il canale postale, quello di Poste Vita, e spiegheremo anche le motivazioni. Il punto di osservazione dell'ANIA, avvocato Nanni, intanto qual è su tutta questa vicenda? Ma noi abbiamo pochi punti di osservazione propri, c'è stata una legge dello Stato che ci ha imposto di versare questi crediti che, insisto e sottolineo, erano già prescritti per gli assicurati, cioè gli assicurati non erano più in diritto di farli valere, e a questa legge non si poteva che dare rispetto, dare ottemperanza, cosa che è avvenuta. Noi abbiamo sollevato fin dal primo momento tutti i dubbi di incostituzionalità per quanto concerne la portata retroattiva della normativa alla quale lei faceva riferimento, non sono stati ascoltati. Quanto agli emendamenti, io mi permetto di dire che è semplicissimo formulare un emendamento per modificare lo stato delle cose. Gli emendamenti presentati non solo non sono passati, come lei ricordava, ma erano tutti formulati in modo abnorme, sbagliato, e quindi non avrebbero sortito l'effetto desiderato. Anche una matricola di giurisprudenza è in grado di fare l'emendamento. Si tratta di eliminare la portata retroattiva della norma e di dire che il fondo conti dormienti deve restituire a questi signori, entro un lasso di tempo che si potrebbe decidere come si vuole, quanto ha già incassato a questo titolo. Ci sono molte non posizioni, certo. Temo che non lo si voglia fare. Infatti quello che volevo dire è che le posizioni su tutti i fronti sono assolutamente condivise da questo punto di vista, perché è chiaro che si tratta, come dire, di un'azione forte nei confronti di persone che non si possono difendere, e non c'è in assoluto, a quanto pare, proprio la volontà di arrivare proprio al destinatario di questo messaggio, che dovrebbe essere a questo punto solamente il ministro dell'economia Tremonti. Peraltro il fondo dei conti dormienti, Ma mi chiedo, avvocato Martinello, chiedo a lei quanti soldi confida anche il Ministero dell'Economia di utilizzare? difficile da dire. Partita, in dai sostanza, dati che abbiamo risulta che un primo versamento, perché il versamento nel fondo avviene, che ricordiamolo, è il fondo per le vittime dei crack finanziari. Quindi qui sì, c'è un paradosso, lì, perché esatto, per tutelare le vittime, giustamente, le vittime dei crack finanziari si fanno altre vittime. Vabbè, questo è un piccolo paradosso. Il versamento da parte delle compagnie assicurative nel fondo avviene annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno. Quindi il 31 marzo del 2009 è già stato fatto un primo versamento che a quanto ci risulta è di alcuni milioni di euro. Ma a prescindere, avvocato, mi scusi se la interrompo, della legge intervenuta sui conti dormienti qualche anno fa, questo era un meccanismo che avveniva già. I crediti prescritti venivano già trasferiti in precedenza al Ministero dell'Economia. Ecco, questo è un intervento nuovo previsto dalla legge Alitalia, di cui parlavamo prima, che è della fine del 2008. Nell'ambito del cosiddetto salvataggio Alitalia fu previsto anche che per tutelare anche gli obbligazionisti e gli azionisti Alitalia bisognava, come dire, dotare il fondo per le vittime di maggiori risorse. Prima i crediti prescritti a vario titolo venivano mantenuti Prima i crediti prescritti in teoria venivano, certo, in teoria venivano mantenuti dalle compagnie, il che sicuramente non è giusto. Il problema è che per introdurre questo meccanismo di accesso al fondo di questi fondi, di questi soldi, si è fatta una misura brutale che ha, come diceva giustamente Nanni, un effetto retroattivo che è sicuramente incostituzionale. Quindi bisogna anche dire che questi soldi che andranno eventualmente nel fondo, lei mi chiedeva di quanto stiamo parlando, nel 2009 sono stati versati alcuni milioni di euro, quindi cifre sicuramente non enormi in valore assoluto. Nel 2010, fra poche settimane, se non si riesce a intervenire sul piano legislativo, rischiano di andare a finire nel fondo altri indennizzi per svariate decine di milioni di euro. Anche qui è difficile fare una stima. Solo Poste Vita parla di 50 milioni di euro, solo Poste Vita. Probabilmente ci sono altre compagnie che si trovano nelle medesime condizioni, quindi potremmo parlare forse anche di qualche centinaio di milioni di euro. Ecco, avvocato Nanni, ritorno ancora a lei. Ammettiamo di essere la erede di una persona che è venuta a mancare, che mi ha lasciato in eredità a mia insaputa una polizza vita scaduta. Mediamente le chiedo, per esempio, per prodotti di questo tipo la prescrizione qual è? La prescrizione, fino alla norma di cui parliamo, che è entrata in vigore il 28 ottobre 2008, era di un anno. Secondo quanto stabilisce il codice. Evidentemente quella stessa norma l'ha portata a 2 anni. Però mi risulta che molte compagnie avessero rinunciato a questa prescrizione di 2 anni a favore di quella decennale. No, guardi, non è così. Innanzitutto la prescrizione, che è una normativa inderogabile, non si può rinunciare a priori. Si può rinunciare agli effetti della prescrizione nel caso concreto, perché si tratta soltanto di diritti patrimoniali del singolo, dei quali il singolo può fare quello che vuole. Quello mi permetto anche di interloquire un attimo con l'amico Martinello. Noi non paghiamo entro il 31 marzo, paghiamo entro il 31 maggio. Marzo è soltanto un'informativa preparatoria. L'unico pagamento sin qui avvenuto riguarda unicamente i crediti prescritti nella parte retroattiva della norma, quindi parliamo concretamente per ora soltanto di questo. Si tratta di crediti prescritti, cioè si tratta di crediti che, secondo il diritto civile italiano, l'assicurato non avrebbe più diritto di chiedere all'assicuratore. Che cosa avveniva in passato, prima di questa disciplina che riattribuisce al fondo conti dormienti? Avvenivano cose diverse. L'ISVAP aveva sollecitato le imprese a rinunciare alla prescrizione nel caso concreto, ripeto, non contrattualmente e a priori. Alcuni lo facevano, alcuni non lo facevano. Certo è che sul piano giuridico il credito prescritto giovava in un certo senso all'impresa, che avrebbe potuto, come qualunque debitore in caso di prescrizione, rifiutare il pagamento. Oggi la rinuncia non è più possibile, e quindi le imprese non hanno potuto fare altro che dare, come dicevo prima, ottemperanza alla legge. Certo che è una questione molto difficile. Io mi chiedo, avvocato Martinez, la faccio intervenire, devo andare in pausa, ho la prima, però mi chiedo veramente, una famiglia che ritrova magari nel cassetto di casa propria un prodotto di risparmio sottoscritto da un caro del quale non sapeva niente, perché poi sono queste le persone che in questo momento hanno il problema, chi chiaramente in totale buona fede chiede l'esercizio di un riscatto evidentemente del quale crede di essere assolutamente in diritto e non riesce ad ottenerlo, e mi chiedo appunto come faccia intanto un bancario a spiegargli tutta questa situazione, visto che anch'io proprio non ci sto capendo quasi niente, pur avendo già trattato questo argomento almeno altre 4 o 5 volte. Allora magari cercheremo di ripartire da zero facendo l'esempio con una polizza, avvocato Martinello poi magari mi aiuterà proprio per capire esattamente cosa sta accadendo, pur riconoscendo l'avvocato Nanni ovviamente tutta la massima chiarezza possibile sul tema e sull'aspetto, la questione della prescrizione. La liquidazione di mio papà, i risparmi di una vita di mia mamma morti nel 2005 e nel 2007, polizze vita Unicredit, più di 100.000 euro, alla morte di mia mamma chiedo la liquidazione, la banca mi consiglia di non farlo fino a poco prima della scadenza. Ora sono disperata, siamo molti, di più di decine di famiglie. Paola da Roma, che salutiamo calorosamente, la invitiamo a scriverci, gireremo il suo caso se lo vorrà all'avvocato Paolo Martinello, sarebbe anche interessante farci raccontare, magari Gaia se possiamo cerchiamo di recuperare questa ascoltatrice da Roma che ci ha scritto, non ha voluto intervenire, non si è candidata appunto ad intervenire in diretta, magari entriamo un po' più nel merito di questo caso che avvocato Martinello è proprio l'emblema di quello che stiamo dicendo stamattina. Quello che è successo è proprio questo in tutti i casi di cui siamo a conoscenza, cioè che deceduto il titolare della polizza in questo periodo tra il fine 2005 e 2007, i titolari dell'indennizzo, i beneficiari si recavano in banca o presso la compagnia assicurativa in posta per chiedere consigli su cosa fare, e proprio per il motivo che diceva prima l'avvocato Nanni, cioè siccome in quel momento non, alla prescrizione non conseguivano effetti pregiudiziali, il consiglio che spesso ricevevano era non faccia nulla, niente, mantenga, lasci questo denaro, soldi. Esatto. Nel caso di Poste Vita questo era addirittura indicato nel contratto, il fatto che Poste Vita non avrebbe, diciamo così, rivendicato il termine prescrizionale, quindi di fatto questo avveniva. Peccato che a un certo punto, nell'ottobre del 2008, è intervenuta questa legge che ha come una mannaia spazzato via i risparmi delle famiglie. Esatto, ha sostanzialmente impedito che questi accordi tra le parti, tra banche, clienti e compagnie, potessero essere validi, nel senso che ha detto no, se era prescritto, tutto quello che vi siete detti nel frattempo non conta più nulla se la prescrizione era maturata. Quindi qui vorrei anche precisare il fatto che in questo caso è vero, tecnicamente il diritto non ce l'avevano, ma c'era una situazione di rapporto con la banca o con la compagnia per la quale era evidente sia la banca che la compagnia assicurativa non avevano intenzione di rivendicare, certo, quel diritto. Poi naturalmente si può anche riconoscere, come dire, la buona fede degli intermediari finanziari che mai avrebbero pensato che fino il Ministero dell'Economia si inventasse una legge di questo genere. Allora, sulla buona fede sicuramente sì, fino all'entrata in vigore della legge. Qui però dovrei anche lanciare un altro allarme, ed è che anche dopo l'entrata in vigore della legge, cioè quindi quelli che non sono vittime dell'effetto retroattivo, secondo me ancora oggi sono male informati di questa normativa e dei rischi che corrono qualora scada il termine di prescrizione. Avvocato Nanni, sì, infatti. Esatto, nessuno li sta informando in modo preciso, come invece avviene per i conti correnti dormienti, dove è tutto un altro scenario giuridico, ma dove sono previste una serie di precauzioni prima di mettere i soldi nel fondo. Tutto questo nel caso delle polizze non è previsto. Avvocato Nanni, ha sentito quello che dice Martinello, quindi in qualche maniera, come dire, l'industria assicurativa si è sensibilizzata su questo aspetto, viene adesso spiegato bene il tema della prescrizione dei prodotti di investimento sottoscritti presso le compagnie? Guardi, prima di tutto un chiarimento sul discorso dei conti correnti che accennava l'amico Martinello. Il conto corrente, cioè il credito che ha un correntista verso una banca, è un credito imprescrittibile. Perché io, quando accendo un conto corrente, desidero soltanto provvedermi di facilitazioni nei mezzi di pagamento, gli assegni e quant'altro, ma non sono assolutamente obbligato a movimentare il conto. Metto soldi miei, rimangono soldi miei, non vanno in prescrizione. Quindi tutti gli accorgimenti che le banche debbono usare verso i correntisti prima di andare al fondo si spiegano, perché non essendo intervenuta alcuna prescrizione occorre verificare se siamo in presenza di un conto ormai non più curato da alcuno oppure se è un conto che ha ancora dei titolari. In assicurazione questo non succede, come in tutti i crediti di altro genere. Dopo un anno o dopo due anni adesso dall'evento sinistro, il credito è in prescrizione. Dicevo prima, se io compro una casa e non chiedo il pagamento del prezzo, dopo un certo tempo il credito al pagamento del prezzo non ho più diritto di richiederlo. La prescrizione è un istituto vecchio di migliaia di anni e mi stupisce che stiamo ancora a parlarne. E ha finalità di certezza del diritto nei rapporti. Ne stiamo ancora parlando, avvocato, perché c'è gente che magari è nuova, che si affaccia nel mondo della finanza. Certo, però voglio dire, l'assicurato che sottoscrive un contratto è informato nella informativa precontrattuale dell'esistenza della prescrizione. La sua cura maggiore dovrebbe stare nel fatto di non farlo prescrivere, non puoi lamentarti. No, su questa ragione, però, avvocato, io qui faccio un po', come dire, un po' capisco le sue considerazioni, naturalmente, perché lei, lavorando all'ANIA, pensa che viviamo nel migliore dei mondi possibili e che ogni assicuratore faccia il suo dovere presso la propria clientela, e questo accadrà, io sono sicura, al 95% dei casi. Però è anche vero che quando si sottoscrive una polizza vita lo si interpreta come il prodotto di investimento più semplice del mondo, lo si sottoscrive per tutelare tutta la propria famiglia e perché ci si accantona qualcosa che si pensa rimarrà inalterato. Oggi, come lei sa, vendiamo sul mercato prodotti finanziari molto sofisticati che hanno una natura molto diversa, e quindi già come dire, questo sistema ha generato molta confusione nell'ultimo tempo. Io credo che l'aspetto della prescrizione sia l'ultimo che viene spiegato da un assicuratore al proprio cliente. Lei non trova? La prescrizione non è certo tra i profili sofisticati della finanza moderna, come dicevo prima. Io vorrei venire alla patologia, perché quando sento dire che morto l'assicurato, viene detto da qualcuno, no, non prende i soldi, aspetta la scadenza, io inorridisco, perché dal momento in cui si è verificato l'evento morte, l'assicurazione ha svolto la sua funzione, l'assicuratore deve pagare la somma prevista dal contratto e a riprova che il contratto cessa di esistere, si estingue, sta proprio il fatto che da quel momento inizia a decorrere la prescrizione di un diritto pieno e maturo. Quindi se c'è qualche sciocco o qualche sprovveduto o peggio ancora che dà consigli di questo genere, ecco, queste persone che bisogna prendersela, perché hanno fornito informazioni fuorvianti. No, allora chiedo alla Associazione dei Consumatori, avvocato Martinello, siccome io condivido anche quello che sta dicendo adesso Nanni, naturalmente, perché l'intermediario, nel momento in cui il mio prodotto di investimento scade e io lo voglio riscattare, a prescindere dal fatto che arrivi più o meno questa legge, perché mi devi dire mantieni qua? Sì, è chiaro che lo si fa per tutta la... Era un consiglio sbagliato. No, ecco, no, ma guardi, però lì vi è venuta la tentazione questa vicenda precisa di rivalervi contro gli intermediari che hanno venduto i prodotti? Era un nel momento in cui la questione non fosse risolta dal punto di vista legislativo, sarà inevitabile andare in sede giudiziaria. Che in sede giudiziaria si vada contro l'intermediario che ha dato un consiglio sbagliato piuttosto che contro l'emittente, questo sarà da vedere. Saranno comunque sicuramente cause complesse, bisognerà sollevare delle eccezioni di incostituzionalità, il giudice dovrà rimettere sul tema della retroattività, sul tema della retroattività soprattutto. I tempi saranno sicuramente lunghi, ma sarà l'unica strada da seguire. Dopodiché sono d'accordo, quelli erano consigli sbagliati, anch'io non ridisco, però il sta di fatto che li hanno dati non solo gli intermediari ma anche gli emittenti, perché questi consigli sono stati dati sia nelle agenzie di assicurazione, sia nelle banche, sia negli uffici postali. Quindi questi consigli sbagliati, ma diciamo non dannosi in quel momento, perché si poteva anche era plausibile che venisse, diciamo, il consiglio era sbagliato, ma i pregiudizi non ce n'erano. Se anche uno riscattava dopo un anno o incassava il capitale, l'indennizzo dopo un anno, la legge effettivamente è intervenuta con l'effetto retroattivo non solo nel rendere quei consigli sbagliati, ma anche nel impedire qualunque altra possibilità di, diciamo, di rimedio, di pagamento. E questo effetto retroattivo è effettivamente aberrante e oggi abominevole, dà tutta una diciamo una coloritura allucinante a questa vicenda, perché anche chi aveva dato un consiglio sbagliato ma diciamo innocuo fra virgolette, oggi si trova tra l'altro lui stesso esposto ad un'azione di responsabilità abbastanza abnorme anche quella, oltre che la perdita che subisce il consumatore. Allora sentiamo un po' di ascoltatori, perché tra l'altro li ho proprio lasciati per ultimo oggi. Giacomo da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora io intervengo in merito al discorso della prescrizione. Bisogna, potrei sentire anche i colleghi in studio, sono avvocato, sì. Cosa ne pensano di questa questione? Allora, capita che alcune polizze assicurative che si chiamano appunto polizze vita abbiano cause contrattuali diverse, cioè non ci sia soltanto il rischio assicurativo, ma Accade, ad esempio, che la persona che perde la polizza dopo che ha pagato per anni i vari piani di accumulo, la ritrova dopo un po' di tempo e si rende conto che ha pagato, facciamo ad esempio, 20.000 euro. La ritrova dopo un po' di tempo e che cosa accade? A questo punto va a richiedere il pagamento del piano d'accumulo, cioè il cosiddetto riscatto, ma è in vita. Ecco, a questo punto, essendo in vita, non essendoci stato il cosiddetto rischio morte né il cosiddetto rischio sopravvivenza, il rischio assicurativo qual è in questo contratto? Non esiste. Pertanto ritengo che non sia più un contratto di assicurazione, ma un semplice piano di accumulo. Sì. Allora dico, in questo caso la prescrizione è decennale? Questa è la domanda. Allora, sì, guardi Giacomo, la posso rivolgere subito all'avvocato Nanni? Sì, naturalmente qui bisognerebbe vedersi e parlare un pochino meglio. Sì, infatti, perché poi ricostruirla veramente, che non è nell'ambito, diciamo, delle storie che stiamo trattando questa mattina, però. Dunque, una cosa è certa, le imprese non possono confezionare prodotti di fantasia. Le imprese operano in modo rigido, prodotti di ramo primo, assicurazione vita, c'è il rischio demografico, prodotti di ramo terzo, c'è una componente finanziaria, ma c'è il rischio demografico, quindi se si verifica su uno di questi prodotti quello che dice l'avvocato, non siamo assolutamente... Intanto cominciamo a non perderci le polizze, ecco. E non c'è niente da temere. Se siamo, che cosa? In una capitalizzazione, allora, in un'operazione di puro risparmio, qui si tratta di vedere qual è la prescrizione. La normativa codicistica, come l'avvocato ben sa, dice che si applicano a questo contratto, ove compatibili, le norme dell'assicurazione. Quindi la prescrizione dovrebbe essere, salvo prova contraria, anche qui quella breve. Ma diciamo, sono casi un pochino particolari. Esatto, credo. Infatti, che adesso accantonerei. Allora, io naturalmente faccio un po' fatica a digerire certe domande un po' complicate come quella che ci ha fatto Giacomo da Firenze. In realtà l'avvocato Martinello sollevava un aspetto di interesse, ecco, per il caso sollevato. Qualora sarà necessario, io spero di no, ma sarà necessario difendere queste vittime in sede giudiziaria, io credo che questo argomento che accennava l'avvocato di Firenze è un argomento interessante, perché potrebbe effettivamente sostenersi che tutto il problema di cui stiamo discutendo, cioè la prescrizione biennale di questi indennizzi, in realtà in questi casi non è soggetta a una prescrizione biennale, ma a una prescrizione decennale. Però sarebbe un problema nuovo e che meriterebbe di essere sicuramente approfondito. Cioè. Mettetevi in contatto, magari questo lo dico a Giacomo da Firenze, appunto, con altro consumo, con l'avvocato Martinello. Grazie. Allora, volevo un attimo chiedere ancora un secondo di pazienza a Franco da Vercelli, perché volevo farlo sorpassare da Vincenzo della provincia di Roma, che da quello che capisco ha il papà che è venuto a mancare, aveva una polizza stipulata nel 2004. Vincenzo? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci racconti un po' per capire se anche lei è, come dire, identificabile come una persona che ricade nei casi che stiamo trattando oggi. Allora, noi avevamo fatto con mio padre una polizza a dicembre 2004. Sì. Mio padre è venuto a mancare a maggio 2005. Io nel frattempo sono stato chiamato dalla banca per sistemare un conto corrente e altri soldi che ci avevamo. In quell'occasione alla direttrice gli dissi pure sta polizza vita, se era il caso delle Valla. E la direttrice al momento mi disse: guardi, siccome Valle Redi, se la volete lasciare, si può anche lasciare. E noi l'abbiamo lasciata, perché alle Redi sarebbe a me e mio fratello. Sì. Nel frattempo tutti gli anni ci è stata pagata la cedola, ogni dicembre ci pagavano gli interessi. Sì. Finché a scadenza, che era 2009, siamo stati in banca per sistemarsi i soldi e ci hanno creato questo problema delle polizze. E quindi praticamente lei è andato per riscattarla, visto che era arrivata a scadenza questo prodotto, quindi una polizza quinquennale. E ci hanno questa situazione qua delle polizze, i soldi stanno bloccati così. Certo, quanto sta rischiando di perdere, Vincenzo, non per sapere gli affari suoi, ma tanto anche un po' per quantificare i danni che questa situazione... 40.000 euro. Non stiamo parlando mica di 500 euro. Avvocato Martinello, un altro emblema. Certo. Di questa vicenda. Caso emblematico in cui appunto purtroppo questi consigli sbagliati, ma in quel momento diciamo così non dannosi, hanno invece provocato in questo caso. E questo è un caso in cui cui se non si risolve il problema sul piano legislativo, sicuramente questo signore, come tantissimi altri, andranno in causa e lui inevitabilmente dovrà prendersela anche con l'intermediario che, come diceva anche prima il dottor Nanni, ha dato un consiglio aberrante. In quel momento quella polizza andava, era cessata quella polizza, quindi andava e la banca lo sapeva. Questo è l'aspetto interessante in questo caso, è che la banca, bisogna provarlo, purtroppo nella maggior parte dei casi questi contatti erano per lo più verbali, erano contatti allo sportello, magari al telefono, il consiglio dato era sbagliato ma la polizza lì è rimasta e quando è arrivato il momento di riscattarla nel frattempo c'era stata la legge che aveva chiuso le porte. Quindi... c'è anche un altro aspetto molto divertente che vorrei sollevare, che molte banche vendono prodotti assicurativi di casa propria, sarà molto divertente vedere anche poi come se la vedranno in casa. Adesso non so se questo è un aspetto sulla quale volete intrattenervi, certo. Però certo, l'intermediario in questo caso si deve vedere attribuita la responsabilità di aver venduto prodotti di casa propria, magari della stessa compagnia di assicurazione. Sì, in questo caso non credo che si possa neanche parlare di responsabilità dell'intermediario inteso come intermediario assicurativo, intermediario finanziario sì, ma intermediario assicurativo no, perché qua è lo stesso soggetto che emette, che vende, caso Poste Vita, non penso che si possa parlare di intermediazione. No, infatti, produzione e vendita diretta. Polizze vita bancarie sono vendute in banca. Tra l'altro ho citato polizze di Poste Vita, avvocato Martinello, magari ricordiamolo un po' come mai proprio questa partita di polizze è finita sotto i riflettori. Ecco, perché Poste Vita è particolarmente coinvolta in questa vicenda perché intanto per una questione di mercato, cioè le vittime sono piccoli risparmiatori, come dicevamo prima, che molto spesso accedevano a Poste Vita perché era veramente un prodotto base, molto semplice. Nel contratto di Poste Vita, come dicevo anche prima, c'era espressamente prevista non propriamente una rinuncia alla prescrizione, perché come diceva anche Nanni prima, questa non sarebbe stata possibile, ma c'era una clausola in base alla quale Poste Vita avvertiva che, pur essendo la prescrizione allora annuale, poi biennale, non era politica delle Poste Vita invocare la prescrizione una volta maturata. Quindi anche se venite a riscattare scadenza di questi 2 anni, Poste Vita si impegna comunque a risarcirvi, a farvi riscattare quello che vi spetta. Cosa poi, che poi in effetti è stata messa in pratica, perché presso gli sportelli postali a molte delle persone vittime di questa situazione è stato effettivamente detto sì, il suo credito sarebbe prescritto ma noi non invochiamo la prescrizione, certo. C'è scritto anche sul contratto che non lo facciamo e quindi manteniamo fede, lei lasci pure qua i soldi e se vuole riscattarli fra un anno o due lo potrà fare. Fino a nel frattempo è arrivata la famosa mannaia che ha posto nel nulla questa possibilità. Franco dalla provincia di Vercelli, benvenuto. Pronto? Franco, ci siamo, buongiorno. Ah, buongiorno, io telefono per un aspetto che riguarda la polizza di mia madre, sottoscritta nel 98, era una index durata 5 anni, quindi scaduta nel 2003. Allora, premetto che non conosco bene la legge, comunque mia madre è ancora in vita, però alla scadenza del contratto si poteva optare per mantenere là i soldi, perché aveva un minimo garantito del 3% come rivalutazione annua. Sì. Noi finora l'abbiamo sempre lasciati là. Ma alla luce di quello che si sta dicendo, si sta un po' spaventando. Bisogna aspettare che vada in prescrizione quando, una volta che è deceduta mia madre, questo intendo dire. Sì. Perché la polizza sarebbe già scaduta nel 2003, soltanto che è stata optata la possibilità di lasciarla ai soldi. Allora, sarebbe interessante intanto andare a capire, qualora lei richieda il riscatto, sentire che cosa le rispondono. Detto questo, avvocato Nanni, vengo da lei. Lania, questo è un prodotto che peraltro si sta mantenendo vivo perché viene teoricamente movimentato, visto che riconosce l'accumulo di una cedola annuale, se non ho capito male. Ogni caso è esaminato a sé stante. Io dico che in tutti i casi in cui il rapporto continua, perché ci sono nel contratto originario opzioni di continuità, perché si fanno delle innovazioni in cui la somma maturata sul vecchio contratto viene poi fatta affluire a un rapporto nuovo come premio unico d'ingresso, è evidente che la prescrizione non c'è, insomma, no? La prescrizione c'è quando alla scadenza non segue assolutamente niente. Se il contratto dopo la scadenza prosegue, è lapalissiano, non ci può essere alcuna prescrizione. Un piccolo flash per l'amico che prima telefonava, ho seguito male le date, ma se ho ben inteso, la prescrizione nel suo caso era maturata prima del 1 gennaio 2006 e quindi quel caso sarebbe fuori dalla disciplina dei conti dormienti ancorché retroattiva. Vincenzo, allora, ha sottoscritto la polizza a dicembre 2004, il padre è venuto a mancare maggio 2005, la polizza è scaduta nel dicembre 2009. Nel 2000, nel maggio del 2006 era scaduta la prescrizione annuale. Siccome questa normativa la prendono perché è 1 gennaio 2006. Sì, chiedo scusa, mi sembrava. No, no, ma giustamente aveva già detto che non aveva ricostruito bene le date, gliele abbiamo precisate, quindi siamo riusciti a dare una risposta. Non si può salvare infatti. Neanche lui. Allora, ci quanto a Poste Vita, io vorrei fare una precisazione. Poste Vita aveva quelle clausole. Le clausole valgono quello che valgono perché modificavano norme inderogabili della prescrizione. Comunque ingeneravano un affidamento, me ne rendo conto, nella clientela. Però Poste Vita si è trovata di fronte a una legge dello Stato che, per il solo fatto che la prescrizione era avvenuta e il fatto che lei ci rinunciasse, non voleva dire che non fosse avvenuta, no? Si rinuncia a una cosa che è avvenuta. Ecco, la legge supera evidentemente la clausola contrattuale e Poste Vita non ha potuto fare altro questo, che va modificata la legge, siamo d'accordo. Infatti noi abbiamo avuto anche la dottoressa Bianca Maria Farina, responsabile di questa divisione, che ci ha spiegato molto chiaramente la questione, quindi un obbligo al quale loro non si sono potuti sottrarre. Sono sanzionate addirittura, le compagnie che non versassero gli indennizzi prescritti al fondo sono sanzionate. Detto questo, poi quello che si può dire è che comunque l'impianto di questa norma è sbagliato, scorretto e proprio abominevole. Allora noi ci ritorneremo, avvocato Martinello, quindi adesso. Grazie. La pressione su Saglia, sul sottosegretario ministero dello sviluppo economico, ha preso a cuore questa vicenda, ha presentato un emendamento che secondo me questo è fatto bene, il problema è riuscire a presentarlo e farlo approvare. Sappiamo che Tremonti sta facendo una forte resistenza a questo, secondo me, siccome so che Tremonti è una persona intelligente, io credo che non ha capito di cosa stiamo parlando. Mm-hmm. Cioè il problema che si è creato per alcune, non milioni, ma alcune migliaia di famiglie italiane è un problema che non può non essere risolto, perché è stato gestito anche con un po' di superficialità. Io sono convinto che quando Tremonti, qualcuno avrà il tempo di spiegargli che pasticcio è stato fatto con quell'articolo, ci sarà la marcia potrà indietro, non essere d'accordo, speriamo salvaguarderà il denaro, certo, legittimo, certo, di tante persone. Noi torniamo lunedì, buon fine settimana a tutti.